Sono le ore 9:22 di lunedì 27 gennaio 2025. È di un paio di giorni fa l'annuncio di Valigia Blu. Mentre suona uno strano allarme, probabilmente la macchina è convinta che io abbia un passeggero nel sedile accanto, in realtà è il mio zaino. Adesso ho messo lo zaino in piedi e l'allarme si è placato. Dicevo, Valigia Blu ha annunciato, con un articolo abbastanza così un po' retorico, ma condivisibile, la sua decisione di lasciare dopo Twitter, cioè X, che abbandonò come piattaforma nell'ottobre del 2024, adesso anche le piattaforme di Meta su cui era presente, quindi Facebook e Instagram, se non sbaglio. Che poi naturalmente abbandonare non significa cancellare il profilo, sono tutte technicalities, ma se dobbiamo dargli un valore simbolico vanno precisate, significa smettere di pubblicare, quindi lasciare, diciamo, anche volendo, l'archivio di tutto quello che si è pubblicato. E decisione, ripeto, condivisibile, anche se io non credo che esista una linea rossa che distingue tecnicamente la presenza su queste piattaforme, o anche il fatto di continuare a scriverci come discriminante tra la persona che aiuta la disinformazione e la persona che la ostacola. Non credo che possa essere, lo dico sempre, non è mai una soluzione tecnica. Ha un valore simbolico, indubbiamente, che apprezzo, ma appunto se vogliamo spostare il discorso dal piano simbolico a quello un po' più concreto, forse bisognava individuare i segni di questa deriva delle piattaforme digitali più importanti, molto prima che arrivasse, o meglio ancora, molto prima che producessero un Trump o un Elon Musk. Un Trump al loro esterno o un Elon Musk ormai al loro interno, visto che è proprietario di X. Perché, vedete, se analizziamo, e lo facciamo ormai da alcuni anni, le biografie di personaggi come non soltanto Musk, ma anche Bezos, Zuckerberg, eccetera, scopriamo non certo dei paladini della libertà d'espressione, come a volte in modo forse un po' blasfemo si autodefiniscono, ma scopriamo degli imprenditori senza scrupoli che hanno vinto in una battaglia dove da sempre vincono gli imprenditori senza scrupoli. E quindi tutti quanti abbiamo creduto a un certo punto, chi con più o con minori dubbi, che questi signori avrebbero aiutato il web a diventare quello che volevamo che fosse. Cioè, c'è stata una fase in cui, per esempio, queste aziende erano sponsor dei principali avvenimenti ed eventi sulla libertà d'espressione in Italia, senza fare nomi. E in quella fase mi sembra che fossero già tutti presenti i segni di una deriva che preparava il terreno a quelle che oggi noi possiamo misurare solo come le ovvie conseguenze, e cioè la deriva verso una informazione fatta di presidio dell'attenzione, di dominio dell'attenzione delle persone. Vi sembrerà una mia ossessione, ma io continuo a credere che sia questa la radice tossica della situazione in cui ci troviamo, anche della situazione politica in cui ci troviamo. Con questo non voglio dire che bisognava svegliarsi prima necessariamente, però volevo solo fornire qualche informazione di contesto per renderci conto un po' tutti quanti del processo di cui siamo stati in larga misura tutti corresponsabili. Thank you. Ecco, a questo proposito vorrei anche aggiungere che ci sono invece piattaforme come Slow Forward, dei siti, per intenderci, di, in quel caso, approfondimento culturale, che riescono a rimanere sulle piattaforme, a pubblicare sulle piattaforme, senza quindi attribuire alcun ruolo simbolico e militante al fatto di rimanerci, andarsene, continuare a pubblicare, eccetera, e riescono a usare le piattaforme senza farsi usare. Usano questi social network come semplice strumento di amplificazione, di diffusione e di raccolta del pubblico verso i propri siti, ed è proprio per questo motivo che nel tempo queste piattaforme hanno iniziato a penalizzare i link verso il mondo esterno. Ecco, e quando è cominciato a succedere questo, e quando abbiamo cominciato a vedere Instagram utilizzare il sistema del link in bio e togliere il link dalle stories e dai commenti, e quando abbiamo cominciato a vedere i browser interni, il browser interno di Facebook, il browser interno di Twitter, è lì che forse potevamo aprire gli occhi e iniziare ad andare off the platform. E scusate se mi è uscito forse un piccolo moto d'orgoglio nel ricordare il titolo di una sezione del Festival Internet Festival di Pisa che organizzai nel 2018, si intitolava così perché voleva essere un invito a rendersi conto che non è lì che internet sarebbe diventata quella che volevamo.